Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta. Un grande mercoledì 5 di luglio, non tanto perché Tutti convocati è sempre in onda, sempre in diretta per tutta l'estate, non vi molliamo mai, ci potete anche vedere via webcam sulla pagina Facebook di Tutti convocati. Giorgio De Luca è sempre il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Ravezzari in redazione, tutti lavorano come pazzi anche se è tempo d'estate per tutti o quasi, per Donna Roma di sicuro. È un grande mercoledì 5 luglio anche perché c'è il mio amico Maurizio Crosetti di Repubblica che ha scritto oggi dei fratelli fortunati in un pezzo che mi ha fatto tra l'altro sbellicare dalle risa. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno caro, fratello mio, fratello non di sangue ma un contratto, possiamo farlo insieme, anche noi. Il fratello buono sei tu, io sono quello, no, che sono quello che prende un milione comunque per 5 anni, ripescato dalla Grecia ad anni 26, se c'è bisogno di una babysitter te la faccio. Noi abbiamo prenotato vacanze in Galles, andiamo... Partiamo lunedì allora, mi raccomando vieni tu alle 7.25 ti aspetto sotto col motore della Rombang. Col Sidecar, ok, partiamo lunedì mattina 7.30, appuntamento sotto sì. casa tua, va bene, perfetto, esatto. Ufficiale, potete venirci a salutare il sottoscritto Maurizio Crosetti. Senti, ma da 1 a 10.000 quanto ti sei stufato di parlare di Donnarumma? 7 miliardi, anche se è una vicenda creativa, nel senso che io tutto mi immaginavo, meno che saltassero fuori il fratello, la maturità e Ibiza. In questo devo dire che gli autori di Donnarumma, che è una serie TV naturalmente, non è vero, è un reality o una serie TV tipo Beautiful, no? E qui il grande fratello c'è in effetti. Di più, è anche un po' reality. Ma no, io così sono anche a parlare di giorni. Allora, ascolta, poi parliamo anche dell'inizio dell'anno del Milan, di cosa ha detto Fassone sulla situazione di Donnarumma. La verità è che l'hanno spedito a Ibiza, ha messo su quell'aereo per levarsi dalle palle, perché pare che ci sia Raiola che non sia contento di quanto ottenuto, perché voleva un'altra conclusione, perché a lui non sta bene, così si dice, dicono i ben informati. Sì, anche perché Donnarumma ha anche un gatto, un criceto e tre canarini, vogliamo occuparsi anche di loro? Cioè, perché dobbiamo trascurare gli animali che poi l'ex presidente di Donnarumma se la prende? Ma bravo Maurizio, bravo, ha anche altre cose da sistemare, quindi Mino Raiola si è messo di traverso in tutta la sua imponente mole. Però, come tu ben sai, adesso ci riempiranno le tasche e la testa di un sacco di demagogia. Ma che bel esempio per i ragazzini che stanno facendo la maturità. Questo che prende il jet e vuole pizza. A parte il fatto che era avanti un anno, non vi preoccupate, è andato a scuola un anno prima il signor Gigio Donnarumma. Sì, come succede ai bambini particolarmente intelligenti, no? Quelli più svegli degli altri li mandano a scuola un anno prima. Sì. E l'ultimo mese dimostra che davvero Gigio Donnarumma è più sveglio Più sveglio, sì, mia figlia è particolarmente sveglia, sta facendo la maturità, è nata il giorno dopo Donnarumma, non lo dico più. Ma comunque, al di là di questo, insomma, che esempio è questo che non fa la maturità, prende il jet, va a Ibiza, che esempio è per i nostri ragazzi? E gli diciamo che devono studiare per trovare un lavoro, un lavoro ce l'ha già anche ben pagato, tanto per cominciare. Sì, io devo dire, questa mattina mi sono trovato davvero d'accordo sia con i miei due amici, insomma, Massimo Gramellini su Corriere e Angelo Carotenuto su Repubblica, i quali, seppure con parole diverse, dicono fondamentalmente la stessa cosa, cioè se abbiamo tutti quanti mandato avanti, quasi tutti, ecco, non tutti per fortuna, la convinzione che la scuola serve solo alla fine a trovare un lavoro, e se lo trovi meglio e prendilo al volo, e tutto quello che c'è di più, cioè l'istruzione, cioè effettivamente crescere come persona, la tua curiosità, i tuoi gusti, eccetera, eccetera, sì, che è quello che poi alla fine la scuola dovrebbe formare, se tutto questo è semplicemente uno strumento per arrivare a quello che Donnarumma già ha, cioè un signor posto di lavoro, ma chi se ne frega di Kierkegaard e di Manzoni. Sì. Il messaggio no, è poi, questo, no, purtroppo. Ma il messaggio è anche, Maurizio, il mio, è che non deve essere l'esempio, cioè nessuno di questi protagonisti di serie finalmente. TV, di social, di... come dire, di fotoromanzi, di mondo patinato, nessun calciatore, nessun giocatore di pallacanestro, Steph Curry o Danilo Gallinari, ma nemmeno, esagero, nemmeno Ambra, nemmeno, esagero, nemmeno Ambra. Non sono, non devono essere, spieghiamoglielo ai nostri ragazzi, non devono essere, sono personaggi della TV, esattamente come Brad Pitt e Angelina Jolie. Mi pare, sì, cioè, bravo, questa, è, così, questa è la mia idea. Se sei bravo a palleggiare con un limone, te ne puoi anche fregare della commissione esterna di maturità. Sì. Però non è proprio così che poi funziona, perché poi magari tre minuti dopo esci nel mondo. Ma anche se sei bravo, e di due strumenti anche soltanto per chiedere un'indicazione stradale, forse anche queste cose la scuola le dà. Ma anche sei bravo a cantare come Vasco Rossi, fai 200.000 al concerto, no? E te ne puoi fregare. Comunque non sono modelli, mi ricordo tu eri piccolo, ma io invece no, per mia sfortuna. Quando si diceva di Maradona, ma guarda che esempio per i giovani, ma non no, ma si dice tuttora, ma che ero piccolo, si dice anche adesso. Solo che lui era Maradona. Donnarumma è uno che proprio non ci, come dire, non ci può essere, non solo l'esempio, ma dopo un po' ci dovrebbe anche stufare proprio, cioè basta Donnarumma, è un bravo giovane portiere, promettente, gonfiato da tutto quello che anche noi contribuiamo a gonfiare, perché ormai è tutto esagerato, quindi sì. Facesse la sua carriera, parasse sti palloni. No, ma poi alla fine hai ragione tu, ma che culo hanno i fratelli d'arte, Misha, Djorkaeff, Evans, Condombia, Juan Alberto Mauri, fratello di José, di Gao, chissà che fa adesso di Gao, fratello di Kakà, te lo ricordi? Era nato a Rimini. Come no, una partita ha giocato. Sì, ha giocato poi una partita a Rimini, nel Milan contro il Catania in Coppa Italia. Una roba anche così. Se poi il massimo della tristezza personalmente me l'ha messo Enoch Balotelli. Perché Enoch me lo ricordo agli europei del 2008, mi pare che fossero quelli prima o del 2012, non so quali dei due. Vabbè, comunque insomma lui era proprio l'ombra di Mario, ma anche nelle posture, nella capigliatura, negli atteggiamenti, metteva il broncio allo stesso modo. Era un replicante di fatto dentro un involucro vuoto, no? Ma perché questo lo obbligava a essere l'ombra di suo fratello. Nessuno deve essere l'ombra di nessuno, insomma. Ma no, ognuno dovrebbe essere se stesso, però questi hanno la fortuna comunque di avere fratello, se fanno una cosa. Anche Max Vieri, te lo ricordi, no? Fratello di Bobo. Ci sono anche i cugini, sai. Io quando ero piccolo e facevo il cronista di campo alla Juventus, quando giocava Di Canio nella Juventus, era un personaggio molto bizzarro, che si qualificava come il cugino di Di Canio, non il fratello di Platini, voglio dire, senza offesa per l'amico Paolino, no? Sì. Il cugino di Di Canio, questo entrava, usciva dallo spogliatoio, faceva quello che voleva, e era talmente spudorato, magari non era vero, secondo me non era nemmeno vero, era un personaggio letterario meraviglioso, no? Una totale invenzione, una gag. Sì, però sì, era talmente spudorato che se tu nella vita decidi di essere il cugino di Di Canio e ti presenti e come dire, fai di questo la tua identità, Pirandello è un povero dilettante. È chiaro. No, comunque quelli davvero fortunati alla fine sono loro, perché poi quegli altri sono appunto tutti protagonisti di un reality. Vuoi sentire? Intanto sono in corso, oggi inizia ufficialmente, tra le altre cose, vogliamo dire, la stagione del Milan, no? Cioè, in cui giocherà Donnarumma quando tornerà a firmare il contratto. Però c'è la stagione del Milan. C'è Fassone che però parla ovviamente della situazione Donnarumma. Eccola qua. Ci sono ovviamente ancora degli aspetti da limare, soprattutto per quelli che sono gli aspetti di corollario al contratto sportivo del giocatore. Oramai però siamo quasi arrivati, nel senso che la stagione inizia, Gigio è convocato per l'11 di questo mese, come tutti i giocatori che hanno partecipato all'Europeo Under 21, e quindi la risposta ci deve arrivare in tempi molto molto rapidi. Si possono quantificare? I tempi? Cioè, noi ci aspettiamo, insomma, non ci sono più elementi tali da dover pensare molto. La proposta c'è, è molto chiara, è formale, quindi io mi auguro che nel giro di pochi giorni ci arrivi una risposta definitiva, auspicabilmente positiva. Cari ascoltatori, ci ricordate Ugo Maradona, ma chi se lo dimentica? 800 24 00 24, a proposito, questo è il contatto per intervenire se avete la vostra da dire in proposito. C'è chi sottolinea che Vasco Rossi è diplomato, benissimo. Chi ricorda che Maradona, come Valentino Rossi aggiungo io perché tanto me lo scrivono tra poco, è un evasore fiscale. Maurizio Crosetti, hai altri due minuti dopo il traffico? Sì, anche perché volevo soffermarmi su una frase molto interessante di Fassone, non vorrei farmi sfuggire questa bella opportunità. No, no, ce l'hai, ce l'avrai. Donnarumma, sembra il nome di una passata di pomodoro. Che ci metti negli spaghetti? A Donnarumma. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono tenuto Maurizio Crosetti ancora per un attimo per ribadire l'appuntamento 7:30 domani mattina sotto casa tua per andare in Galles. Mica no, lunedì sciagurato. Lunedì. Domani lo fare tagliando alla moto, lunedì mattina. Lunedì mattina, no, ho detto una sciocchezza, Maurizio. Davi già buco alla partenza, poi che ti aspettavi? Che volevi dire su Fassone? No, che mi intrigano molto gli aspetti di corollario ancora da limare. Perché uno che parla così può dare 1 milione di euro al fratello di Donnarumma, secondo me, per fare il terzo portiere. Cioè, secondo te sono quelli gli aspetti di corollario da limare? Secondo me gli aspetti di corollario da limare ci riconducono a quel signore che abita, credo, a Monte Carlo, no? Sì, come no, lui pure, perché anche lì c'è un fratello, Anche lì c'è, è fratello o cugino? Guarda che cugino, I cugini sono fratelli un po' alla larga, perché non ci siamo fatti mancare niente in questa dynasty in salsa di pomodoro, per l'appunto. Gli aspetti da limare, secondo me, riguardano appunto quel signore lì che aveva altre idee. No, ma ti volevo cosa vuoi che conti il calcio in tutta questa vicenda? Però già che ci siamo, Milan, Montella ha detto obiettivo Champions League, ci mancherebbe altro, sta facendo un gran bel mercato. A mio parere manca ancora il giocatore più importante, ma anche questo chi se ne frega, cioè quello che corrisponderebbe al profilo di Biglia, ma anche questo chi se ne frega se lo Tito vuole 20 milioni per un giocatore di 30-31 anni in scadenza di contratto, ma sono, anche questi sono dettagli. Però, allora, Juventus, Napoli, Roma, le due milanesi, una starà fuori. Adesso è presto per dirlo. A Roma hanno chiamato Monchi per... Luciano Monchi per premere il grilletto nella vicenda Totti e per smontare la squadra, perché se lo faceva un direttore sportivo italiano, smontavano lui. Sì, è così, la Roma sta facendo davvero il possibile per essere la squadra di quelle che escono dal gruppo, come dicevi tu, si stanno impegnando a fondo, sì, è incredibile sia quello che dicono e poi il contrario di quello che dicono, quello che fanno, ed è incredibile, sì, parte il fair play, va bene, Salà, l'abbiamo detto e sentito in tutte le salse, altri, insomma, Rudiger, sì, solo uno, ma no, ma mai nella vita, poi tutti e due... Non lo so che cosa vuol fare la Roma. Vuole essere l'Inter del futuro, forse. L'Inter del futuro, vuole fare un po' di soldi, perché Pallotta ha detto allo stadio sì, lo facciamo, però aspetta che prenda un po' di quattrini. Comunque, incredibile, ma altra cosa incredibile, poi ti saluto perché devi andare a fare tagliando la moto, appunto. Altra cosa incredibile è quello che sta succedendo a Firenze. Perché è ancora più incredibile la società è in vendita. Facciamo questo bel comunicato gonfio demagogia per cui vengono fuori i fiorentini veri. Ma chi c'ha? Zeffirelli, qual è il fiorentino vero che c'ha i quattrini per mandare avanti la baracca? La Fiorentina è in vendita ai fiorentini veri. E intanto che succede lì? Anche lì tutti che vogliono, è un esodo di massa, esodo biblico. Con tanto di messaggio, meravigliosa anche questa, di messaggio vocale WhatsApp, abbiamo parlato ieri, mandato da Borca Valero a un amico, bell'amico, è finito in tutto il mondo, in tempo reale. Sì, la cosa più bella l'ha twittata stamattina Gianni Gnocchi. ha detto che il David di Michelangelo ha chiesto di essere trasferito ai Musei Vaticani. Pure lui se ne vuole andare da Firenze. No, vabbè, è andata così. Intanto si rimetterà in moto anche il binario Firenze-Torino, che non funziona benissimo, però da quel binario passerà Bernardeschi. Bernardesca, per dirlo come, nel senso è congiuntivo, avrebbe detto il grande Paolo che ride da lassù. Già, Bernardesca, già, sì. Già. Vabbè, Tornarum e Bernardesca. Mao. Ciao, grazie. Mi raccomando, lunedì. Mi raccomando. Fate io. Trovare pronto. Ma a Ibiza non andiamo? No. Un giro largo, mi hai rovinato la sorpresa. Io lì volevo arrivare. Osteria. Ci sentiamo dopo. Ti chiamo dopo il programma. Chiaro, due o tre cose. Ciao. Ciao Maurizio Crosetti. Allora, ci siamo divertiti un sacco. Gino da Pescara in linea. Poi abbiamo un grande ospite, ma è un amico. Gino, buongiorno. Buongiorno. A proposito di Donnarumma. Ma va. Però sì, lo so. Cosa... Però dica. È un'opinione un po' estrema, non so se posso. Estrema, estremizzi. Sì, estremizzi. Sì, estremizzo. Vada. Questa idea non l'ho mai sentita in radio. Comunque Donnarumma in pratica esiste perché c'è l'interesse di milioni e milioni di persone che legittimano la sua esistenza. Io questi qui li definirei tifosi, forse anche un po' imbecilli. No, aspetti. No, il discorso è interessante e tutt'altro che inedito. Cioè, Donnarumma viaggia, così come i giocatori viaggiano a questi ingaggi, perché ci sono delle regole di mercato, è questo che mi sta dicendo. Regole di mercato che non valgono per me, perché sono un lavoratore fungibile, se non ci sono io qui viene un altro, per lei non so che mestiere fa, ma spero per lei sia infungibile. Sì, anche io sono vittima del mercato, diciamo, anche io rispondo. No, ma la questione è che ci sono alcuni attori, cantanti, giocatori di calcio, di basket, di quello che volete, che sono... non sono come tutti noi, questo dobbiamo accettarlo. Federico Pastorello, buongiorno. Buongiorno a tutti. Stiamo voi facendo discorsi elevatissimi, siamo anche divertiti con Crosetti. Come stai, Federico? Bene, tutto molto bene. Gente FIFA, come sapete, c'è chi dice, ieri abbiamo provato a capire, ma Raiola vince o perde in questa vicenda? Io credo che abbia comunque vinto, nel senso che alla fine, adesso io non so chiaramente se firma o non firma, nel senso poi sì, a me certo. Sinceramente non amo più di tanto parlare di situazioni che non mi riguardano, perché poi bisognerebbe avere tutti gli elementi. Delle tue, certo. Esatto, e poi comunque per giudicare bisognerebbe appunto avere gli elementi da ambo le parti, però io credo che lui abbia vinto, perché alla fine è riuscito comunque a ottenere probabilmente il miglior risultato possibile. Quindi credo che alla fine abbia fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista. Dopo probabilmente c'è stato un po' di strascico mediatico, e questo magari potrebbe creare qualche magari problema in futuro, più che altro al ragazzo, perché purtroppo sono ti metti in certe situazioni dove alla fine purtroppo non puoi sbagliare. D'altra parte, stiamo parlando di un grande campione. Sì, ma stiamo parlando. Un grande campione pare, lo scopriremo vivendo. Insomma. Ma anche perché leggo delle quotazioni spaventose per quelli che sono potenzialmente grandi campioni e che interessano, ad esempio, l'Inter, interessano vari club che pronti a investire un sacco di quattrini per ragazzi che sono poco più che bambini, quindi potenzialmente grandi campioni, ma mi sembra che sia la caccia veramente all'enfant prodigio. Senti, cosa ne pensi di questa idea di Tavecchio di regolamentare voi agenti, le funzioni di voi agenti? Io credo che sia un'ottima cosa. Io purtroppo non riesco a seguire da vicino le vicende della nostra associazione, anche se ripeto, ovviamente ne faccio parte, però a me risulta che a Tavecchio i nostri rappresentanti abbiano chiesto da mesi un incontro proprio per discuterne, quindi a me sembra anche a volte che sia facile, tra virgolette, puntare il dito contro la categoria, demonizzare la categoria quando, assolutamente sì. quando invece credo che gli agenti abbiano solo l'interesse nel momento in cui ci sono delle norme chiare al quale attenersi. Quindi da questo punto di vista io ripeto, mi risulta che i nostri rappresentanti stiano chiedendo, ripeto, da mesi questo appuntamento alla federazione, quindi speriamo che di essere ricevuti, questo baccano per essere ricevuti, esattamente. Allora, anche tu, adesso scendo nel dettaglio, anche tu hai un signor portierino che ha parlato ieri sera, si chiama Meret ed è udinese e torna dopo una stagione meravigliosa con la Spalla. Giocare con continuità, adesso vediamo dove, probabilmente anche alla SPAL, perché è stata una piazza molto importante per me, che mi ha dato tanto e sarebbe un piacere tornarci. Si parla di Napoli? Ma questo non lo so, a me personalmente non è stato detto niente, quindi vedremo. Potresti puntare anche alla porta dell'Udinese, no? Ah, la squadra in Serie A già ce l'hai? Ci sono 3 portieri forti a Udine, uno deve rimanere e gli altri 2 devono andare. Vabbè, Meretta, Scuffetti, mi sembra chiaro. Quindi vedremo quale sarà la decisione e poi faremo delle scelte. Il suo procuratore è Federico Pastorello, che non ci dirà nulla. Sì, no, a parte che è l'agente di Alex, è Andrea, mio fratello, comunque sì, chiaramente roba di famiglia, sono informato. Gioielli, no, famiglia. No, certo, assolutamente. No, comunque io credo che ha detto giusto Alex, io credo che visti i suoi 20 anni, è giusto che faccia quello che deve fare, ovvero giocare e migliorare, perché ovvio oggi ha la necessità di continuare questo percorso di crescita. L'Udinese questo lo sa bene, tant'è vero che infatti stiamo trattando proprio in questi giorni il rinnovo e dopodiché la possibilità appunto di andare in prestito. È vero che essendo un portiere così quotato ha già chiaramente solleticato certi club che hanno mostrato interesse e quindi ripeto, vediamo cosa può succedere, nel senso da quello per quello che è il nostro scenario migliore possibile sarebbe quello assolutamente di continuare appunto questa avventura magari con la SPAL, dove il ragazzo si trova molto bene con Mister Semplici, con la società, che è una società proprio per bene ed è una bellissima piazza, e magari ripeto, preparare una sua partenza il prossimo anno, oppure ripeto, visto che il mercato è così sorprendente, potrebbe essere anche il caso che un club importante possa provare a comprarlo oggi e lasciandolo comunque sempre un anno a maturare e poi certo, recuperandolo l'anno prossimo. Però quindi, il punto di partenza, c'è grande che colloquio, sì, con la sua, scusa, c'è grande colloquio con l'Udinese, quindi ripeto, valuteremo in base alle cose che vengono fuori, insomma, ecco, c'è il desiderio ripeto di percorrere questo cammino. Non credo lì a Udine come perché mi sembra che abbiano fatto già delle scelte con Scuffet, con Bizzarri, quindi io credo che comunque sia il suo futuro sarà lontano dal punto di vista tecnico da Udine, quantomeno per quest'anno, poi dopo vedremo il futuro. Però Federico, la base di partenza è un club che lo prende, un grande club, e lo mette in parcheggio eccetera. Il punto di partenza, che secondo me è correttissimo ed è fondamentale, è un club che gli garantisca i guanti da titolare, è così? Assolutamente, no ma infatti assolutamente Alex farà una carriera straordinaria, perché oltre a essere un portiere straordinario è un ragazzo anche molto umile che sa di dover lavorare ancora molto per migliorare, per arrivare al top della sua categoria, e quindi questa grande umiltà che devo dire gli è stata sicuramente trasmessa dalla famiglia, che è una famiglia veramente squisita, e da questo punto di vista coi piedi molto per terra gli ha dato proprio questo tipo di educazione, quindi la sua forza sarà proprio questa in futuro. Ciao Federico, sentiamo presto. Grazie mille, grazie a voi. Federico Pastorello. Allora ci fermiamo per la borsa. poi andiamo sulla vicenda spinosissima che non riguarda il calcio, ma voi continuate a chiamare 800 24 00 24, perché poi sul calcio torniamo, abbiamo molte altre cose da dirvi, molti altri ospiti, però su una vicenda spinosissima che è quella dell'esclusione di Sagan, campione del mondo, dal Tour de France per la gomitata a Cavendish di ieri. Ad avere i soldi di Inzaghi, tutti convocati. I vulcani sono montagne arrabbiate? Gli antichi romani facevano il bagno nel Tevere? I paesi sono tutti uguali o tutti diversi? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Torna a Terra in Vista con l'Italia spiegata a mio figlio. Parleremo delle tante diversità dell'Italia attraverso le città, i fiumi, le coste, le montagne, le isole. Cercheremo di capire insieme perché l'Italia è un paese davvero unico. Insegniamo anche a fare la pizza, quindi? No, dai, pizza e mandolino no. Terra in Vista, l'Italia spiegata a mio figlio, con Telmo Pievani e Federico Taddia. Dal 9 luglio, ogni domenica alle 12, su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Parte anche De Mar, attenzione, contatto con Greipel, Buonni, si torna in minuti, va a finire Rescio alle transenne, vediamo chi rimane là davanti, Christophe con De Mar, Christophe con Sagan, De Mar, De Mar, Arnaud De Mar, Sagan, Christophe, poi Greipel, Buonni e qualcuno finito. Vedi, si è caduto sulle transenne, l'hanno buttato alle transenne su un'onda creata da Buonni, brutte cadute. Due cadute, uno un po' più lontano, era rimasto Rescio, scoperto, non si vedeva Cavendish. È stato Sagan che ha picchiato dentro Cavendish. Pare, guarda, che Sagan qua, abbia tirato qua. Una Sagan Sagan nulla, diciamo che sembra che abbia alzato addirittura il braccio, non vorrei dire, ma mi è sembrato di vedere questo. Pandemonio al Tour de France con i nomi più illustri che ci sono del velocismo, tra i velocisti attuali, addirittura Peter Sagan, il fuori classe campione del mondo, la rockstar. Squalifica, esclusione dal Tour de France di Peter Sagan. In linea ovviamente Pier Augusto Staggi, che saluto, ciao Pier. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E poi chi è stato il re di tutti i velocisti del mondo, Mario Cipollini, ciao Mario. Ciao, buongiorno. Ciao, grazie. Allora, io farei così, andrei con la cronaca con Pier Augusto che ci racconta questa vicenda, e poi commento di Mario Cipollini, e poi il domandone ma lo faccio dopo, vai Pier. Ma intanto, molto semplicemente, la volata sembrava anche facile, perché un chilometro e mezzo prima c'era già stata un'altra caduta. Poi in un secondo momento ci sono dei pareri discordanti, dei filmati dall'alto, addirittura accusato anche in quell'occasione Peter Sagan, ma la giuria sembra che non abbia preso in esame questa caduta avvenuta a un chilometro e mezzo. Poi si spacca il gruppo e arrivano sostanzialmente a fare la volata una quindicina di corridori, 20 non di più, quindi una situazione ideale, perché Mario poi dopo potrà raccontare cosa vuol dire fare una volata, farla coi treni, certo. E come ci si deve muovere in certe occasioni. Quindi sulla carta era una situazione ideale. Cosa succede? Che invece in realtà è una volata assolutamente scorbutica. A un certo punto Sagan è pronto a recuperare qualche posizione perché ha nella testa, negli occhi, la maglia gialla da andare a conquistare con gli abbuoni, alle sue spalle, verso le transenne, proprio attaccato alle transenne, cerca di passare, cerca un varco l'ex campione del mondo Mark Cavendish, sì, che con ogni probabilità tocca col freno sinistro il gluteo di Sagan. Sagan perde per un attimo, proprio un momento impercettibile, che perde l'equilibrio e allarga il gomito, perché secondo me, lì poi lascio il parere a Mario, quando si vuole dare una gomitata, la gomitata è una gomitata, è un gesto violento, diretto, forte. Qui invece c'è quasi un sbilanciamento, è chiaro che allarga il gomito, è chiaro che fa un'infrazione, e secondo me, lo dico a chiari lettere, Sagan andava punito, come hanno fatto in un primo momento, dove gli hanno dato l'ultima posizione del gruppo sì. a cui faceva parte, quindi il 115esimo posto, 30 secondi di penalizzazione, perfetto, 80 punti in meno, 80 punti in meno perfetto. Nella classifica della classifica per la maglia verde, che è, diciamo, la maglia gialla per i velocisti, ecco, quella classifica punti. Quindi mi sembrava abbastanza mandarlo a casa mi sembra veramente una condanna a morte sportiva, questo intendiamo. Mario Cipollini. Sì, allora credo che Per abbia illustrato perfettamente l'accaduto di ieri. Concordo con tutto, sono anch'io d'accordo con il fatto che mandare a casa Sagan per questa scorrettezza la trovo esagerata. Potevano tranquillamente sanzionarlo in svariati modi, certo. E soprattutto dare un monito, nel senso che guarda che nelle volate non si deve fare così. Poi soprattutto tu, che sei l'atleta più considerato, quello che dà esempio al mondo e si stimola qualche ragazzina a correre in bicicletta, e sicuramente Sagan, pochi altri in questo gruppo, per cui potevano naturalmente parlarci. Da lì, se facciamo una retromarcia e andiamo a vedere il video di ieri, si capisce una cosa importante, che non c'è più nessuno sicuro di se stesso, nel senso che il primo essere insicuro è Cavendish, perché a un chilometro dall'arrivo, quando ha due atleti davanti che gli stanno facendo il treno, lui cosa fa? Gli fa esattamente l'elastico, no? Gli fa il buco in gergo ai suoi compagni, per cui creando quel varco di quello spazio obbliga quelli che lo stanno seguendo ad andare a cucire il buco, e lui deve in qualche modo rinfilarsi nella migliore posizione, quella che riesce a conquistarsi. E dopo cosa diventa? Diventa una marcatura a uomo, perché nessuno ha veramente la correttezza, né la forza, né la sicurezza di partire e andare a fare il proprio sprint per la linea. Ieri andavano squalificati tutti, meno che Cristo, perché è l'unico che ha fatto la sua traiettoria dritta. Dietro è stato un pandemonio che ha, secondo me, a chiare lettere, dimostrato che sicurezza e forza sicuramente non ce n'è. C'è da dire una cosa, Sagan è sicuramente un grande campione, è forse il meno adatto a uno sprint, non il meno adatto, ha qualcosina in meno rispetto ai classici velocisti, certo, definiamoli tali, classici, no, certo, no, certo, non certo. Si può definire Sagan un velocista, ha vinto il giorno prima irridendo quasi gli avversari, i campioni più proclamati negli arrivi in salita, a parte Valverde, ha giocato con tutti, per cui questa sua potenza, questa sua capacità di fare arrivi in salita è straordinaria. Naturalmente ha forse qualcosina in meno come punta di velocità rispetto ad alcuni, sì, per cui sì. Cosa fa? Lui è comunque, in qualche modo, riesce ad arrangiarsi, per cui riesce a vincere anche le volate di gruppo. Chiaro. È stata una volata di gruppo, secondo me, veramente... all'arma bianca ieri. All'arma bianca. Tutti contro tutti. Erano ti chiedo questo, Mario, c'era lo spazio per passare di lì? Dove ha provato a passare Cavendish? Perché a me sembra che Sagan segua una linea. Allora, secondo me sembra che Sagan segua una linea finché non vede che c'è un'ipotesi di un'ombra che sta arrivando, che secondo me era l'unico anche in quel momento lì avrebbe forse potuto contrastare De Mare, perché aveva il corridoio aperto a destra, tanto sì. È vero che Christoph negli ultimi 150 metri rimane sulla sua linea, non si sposta, e avendo passato Sagan da quella parte lì, lui avrebbe potuto avere un corridoio libero per andare a contrastare De Mare. Naturalmente Sagan, probabilmente istigato già precedentemente, perché non abbiamo visto nell'ultimo chilometro cosa accade se Cavendish già lo tocca più di una volta, tanto sta che secondo me Sagan l'apertura del gomito, poi la si può raccontare come la vogliamo, equilibrio, non equilibrio, l'apertura del gomito Sagan la dà bella netta e giusta, dopo aver deviato minimo di 80 centimetri la propria traiettoria di linea, per cui sì, è andato a cercare di chiudere quel varco. Si dice normalmente quando tu ti vai a inserire in un varco vai un po' a cercartele, come ha fatto Cavendish. Chiaro, e chiaro, di solito chiaro. Non si fa, però la freddezza di un campione dovrebbe essere anche quella che capisce che il rischio forse di una maglia gialla non vale la vita di un altro atleta. Ecco, questo forse è il Tour de France che ha voluto punire, perché insomma a Cavendish gli è andata bene, perché quando si cade vicino alle transenne con l'asfalto non si sa come si cade, insomma stiamo andando a quasi 70 all'ora. Evidente, picchi, evidente. Se picchi il mento invece del casco rimani lì dove sei. Questo è evidente. Per cui il Tour de France secondo me ha colto anche l'occasione di apparire un super partes incredibile, sì, cioè ne punisco uno per educare tutti gli altri, non ce ne frega niente, sei Sagan, sei questo e quell'altro. Credo che in questa scelta Sagan paghi anche in parte il fatto di essere l'unica vera stella di questo Tour de France, e fondamentalmente ai francesi che ci sia un individuo che è superiore all'importanza del Tour stesso, ai francesi non va bene. Lo dimostrava il fatto che Marco Pantani e Mario Cipollini venivano lasciati a casa. Sì, sì. Venivano lasciati a casa perché? Perché in quel momento Mario Cipollini nelle volate, Marco Pantani nelle salite rischiavano di essere più importanti del tour stesso. Lo so, è un discorso che abbiamo fatto tante volte ed è estremamente intrigante. Il tour è il tour, chi lo corre lo decidiamo noi, ma non deve oscurare tutto quello che è Monsieur Tour de France. In Monsieur questa Grand scelta Book. Secondo me hanno colto la palla al passo per questo, mostrare, per mostrare i muscoli, sì, vai. Poi chiaro. Per di più non sappiamo in realtà quelle che sono le relazioni tra l'Unione Ciclistica Internazionale e il Tour de France, perché credo che l'Unione Ciclistica Internazionale in qualche modo dipenda dal proprio beniamino, perché la maglia di campione del mondo ha il simbolo UCI sulla maglia, per cui naturalmente l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, non gode a vedere mandare fuori dalla corsa più importante il corridore più importante, uno degli illustri comunicatori di questo sport nel mondo, per cui credo che siano subentrate delle dinamiche di altro tipo, superiori al problema stesso dello sport. Grazie ragazzi, grazie Mario Cipollini, grazie per Augusto Stagic, ci risentiamo naturalmente domani. Andiamo velocementissimamente con il traffico, abbiamo due ascoltatori in linea. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, abbiamo giusto il tempo per un paio di ascoltatori che sono Achille ed Aurelio. Achille da Cesena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Tanto grazie di avermi richiamato, volevo solamente grazie dire a voi. Una cosa. Prego. Sul ciclismo capisco veramente poco come Cipollini abbia centrato il punto dicendo che il Tour è il Tour e poi Sagan, che è adesso un punto diciamo dove tutti guardano, viene messo un po', è stato mandato via per questa ragione qui, perché il Tour deve rimanere sempre... Allora, questo è un discorso centrale. Allora, Achille, lei capirà poco di ciclismo, sì. Però questo è un punto molto interessante. Cipollini lo ha ribadito, ma come ne abbiamo parlato molte volte. Il Tour de France è una religione in Francia, e molto spesso è accaduto che gli organizzatori del tour stesso abbiano voluto deliberatamente ribadire l'importanza del tour su tutto e su tutti, cioè noi siamo il Tour de France e i corridori non sono importanti quanto lo è la corsa stessa. E questo è stato un altro esempio. Cipollini prima citava gli esempi suo, il più forte velocista del mondo, e Marco Pantani. Potevano questi umani oscurare il dio Tour de France? No, non potevano. E dunque... In alcuni casi non sono stati voluti. E voleva aggiungere qualcosa? Sì, solo su Donnarumma. Secondo me il ragazzo è sopravvalutato, a mio punto di vista, perché secondo me un giocatore che a 18 anni fa un europeo come quello che ha fatto, nessuno lo dice, ma francamente quando noi abbiamo perso la semifinale 3 gol, sì, 2 sono colpa sua, assolutamente, nessuno lo dice, tutti tacciono su questa cosa. ma è assolutamente sopravvalutato. Capisco che abbia 18 anni, ma secondo me quello che riguarda tutto il problema mediatico, giornali, Milan e tutto quello che ma Achille, allora guardi, suggerisco, lasciamo perdere l'europeo dove gli hanno fatto 10 tiri nello specchio, la porta ha preso seguito, ha fatto un pessimo europeo, questo lo sappiamo, non ci possono venire a raccontare che tutta la telenovela che aveva intorno non ha influito, quindi lascerei stare quello. La stagione che ha fatto dal Milan è stata una eccellente stagione, è un ragazzo di 18 anni, quindi di un'età giovane, sapete voi quanto per un portiere, ha commesso diversi errori anche in questa stagione, però finché è protetto dal Milan, dal club, dalla società, finché gioca a casa sua è un conto. Se va oggi a giocare al Real Madrid ne fa uno, ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, e poi arrivano i fischi del Bernabeu che non risparmia nessuno, nemmeno Cristiano Ronaldo, e magari finisce in panchina. Quindi il discorso è questo. Vale il discorso fatto in maniera estremamente intelligente prima da Pastorello su Meret, i portieri così giovani hanno bisogno di giocare. Aurelio c'è? Buongiorno, dica. Sì, buongiorno dottor Genta, grazie per la chiamata. Grazie a lei, dica. Io chiamo sull'argomento Donnarumma a nome dei 454.000 meno uno genitori di quei ragazzi e di quelle ragazze che si stanno facendo un mazzo così in questi giorni per diplomarsi. Sì. E vorrei capire e vorrei avere una riflessione da parte sua su allora, questo argomento. Mi fa una cortesia, prego, Aurelio. Prego. Allora, prego. Dato che abbiamo ancora 20 secondi e esaurire questo argomento in 20 secondi sarebbe una sciocchezza, possiamo risentirci subito dopo il GR? Rimango in linea. No, non rimango, la richiamiamo noi. Ci richiama lei. Sì, la richiamiamo noi così ripetiamo questo, torniamo su questo discorso. Siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, e se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Sono Giampaolo Musumeci. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Dal 9 luglio, tutte le domeniche, alle 19.10, su Radio 24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Quest'estate il falco e il gabbiano non volano in vacanza. Rimaniamo con voi riproponendovi le puntate che voi ci avete chiesto di farvi riascoltare. Voliamo sulle ali di carta fino a Brescello per raccontare Don Camillo e Peppone, due facce di quell'Italia. Il Falco e il Gabbiano vi aspetto oggi alle 15.30, naturalmente su Radio 24. Devo stare seduto in panchina a guardare. O puoi entrare in campo. Ricominciamo tutti ai vostri posti. E andiamo. Convocati. Allora, mi sono tenuto, lo ringrazio della pazienza, l'ascoltatore che ha chiuso l'ora precedente, Aurelio della provincia di Milano, le chiedo un'altra cortesia. Aurelio, ricominci da capo il suo discorso. No, come? Aurelio, è caduto, richiamatelo immediatamente, ragazzi. Intanto saluto e ringrazio Fabrizio Biasin, che è nostro amico, responsabile pagine sportive di Libero e che si trova in un bel posto a Monte Carlo. Che ci fai lì? Guarda, c'è la presentazione dei palinsesti Mediaset, quindi mi sono concesso questa giornata istituzionale. Questa diciamo. Giornata istituzionale. Oggi, oggi praticamente meglio che lavorare, diciamo così. Cosa hai scritto di bello di recente? Io lo so, ma raccontalo agli ascoltatori. Ma guarda, mi sono permesso un piccolo sfogo relativo a quello che era uscito e al momento non è ancora confermato riguardo al rinnovo del contratto di Donnarumma, non tanto per quello che è successo o succederà, quanto per la situazione attuale del calcio in Italia, che non solo in Italia in realtà, in Europa e nel mondo, che consente ai procuratori di avere tutto questo spazio, questa mano libera. Secondo me bisognerebbe mettere un freno in qualche modo, però ti dico la verità, da esterno è facile dirlo, da interno io non lo so come si possa fare. Sì, Allora, stai con me perché stavo facendo un discorso interessante con Aurelio che chiamava dalla provincia di Milano, che è in linea, credo. Sono qua. È lì, la ringrazio. Guardi, le chiedo un'altra cortesia, cioè quella di ripetere, di ricominciare il suo intervento da capo. Con lei abbiamo chiuso l'ora precedente, però il discorso mi interessava e non si può sbrigare in un secondo. Dica. Perfetto. No, le dicevo quando sono intervenuto che chiamo a nome dei 454.000 circa meno uno genitori di quei ragazzi che stanno per diplomarsi in tutta Italia. Sì, faccio parte della categoria, per la cronaca. Ecco, anch'io ho una figlia che si sta facendo il mazzo, come si dice, che ha dovuto farsi le selezioni per accedere ai corsi universitari, come immagino anche lei possa aver già vissuto questo percorso, e volevo veramente una riflessione in tal senso, perché nulla da eccepire alla professionalità del calciatore, anzi forse guardando da imprenditore l'investimento dei 6 milioni all'anno è anche poco, guardando l'età del ragazzo, però questa è una cosa, l'altra cosa però è l'altro messaggio che sta arrivando e vorrei capire come ne escono questi 454.000 meno uno, che invece dovranno per tutta la vita, immagino, Aurelio, continuare a farsi il mazzo. Ecco, l'ascolto per Aurelio, radio, volevo una riflessione molto profonda. Riflessione molto profonda andrebbe fatta, non solo da me. Come ne escono? Ne escono come i normali genitori di normali ragazzi che vanno a scuola. Vale quanto abbiamo detto prima con Maurizio Crosetti: se diciamo ai nostri figli che devono studiare, devono andare bene a scuola, devono laurearsi eccetera per trovare un lavoro, allora la risposta è facile: questo ragazzo il lavoro ce l'ha già ed è estremamente ben retribuito. Quindi, però il discorso è che non deve essere il termine di esempio per tutti gli altri della cui categoria facciamo parte, perché quello che vediamo in televisione, quello che accade nello sport, quello che accade nel cinema, nella musica eccetera, è fiction, è reality, non appartiene ad una realtà comune a tutti noi. Lì valgono certe leggi di mercato che in una società normale non valgono. E dunque dobbiamo guardare lo sport come guardiamo un film, dove peraltro gli attori sono estremamente ben retribuiti, non so se hanno fatto la maturità, non so se sono andati a scuola eccetera. Se invece diciamo che la scuola è importante, come si diceva prima Maurizio Crosetti, per la formazione dei nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi abbiano qualcosa dentro, alla testa e all'anima, oltre che al portafoglio, allora questo è tutt'altro discorso. Fabrizio Biasino ha fatto sociologo, perdonami. No, l'hai fatto molto bene. Io condivido quello che hai detto tu, condivido quello che ha detto anche l'ascoltatore, perché secondo me in questo caso è stato tutto comunicato male. Cioè il problema non è soltanto Donnarumma che salta la maturità oggi, ma è anche Donnarumma che rimanda la maturità. Ci sono esempi di suoi colleghi che hanno saltato il Mondiale Under 20 qualche anno fa, Scuffè, pur di andare avanti con gli studi, ha rinunciato all'Atletico Madrid. Sì. Non bisogna indignarsi per quello che succede, perché ormai il calcio è in questa situazione qua, però a quel punto non bisogna più neanche santificare nessuno. Sì. Cioè non facciamo passare la famiglia Donnarumma come la povera famiglia che in questo momento sta gestendo una situazione molto complicata, perché è una situazione nella quale tutti quanti noi vorremmo trovarci e forse gestiremmo in maniera migliore dal punto di vista della comunicazione e dell'immagine. Sì certo. Ad esempio, sai che il papà di Danilo Gallinari, Vittorio Gallinari, faceva giocatore professionista, si è laureato alla Bocconi mentre faceva giocatore professionista, ma è una tantum, no? È un esempio è un esempio mosca bianca tra i tanti. Senti, ma Carlo, posso dirti, guarda, ti interrompo un secondo, diciamo dimmi anche la verità, se lui oggi si fosse presentato alla maturità in questo momento doveva andare via per altre ragioni, perché, ma per amor del cielo, mi va benissimo, quindi, posso dirti l'altra cosa che fa abbastanza sorridere, che probabilmente se si fosse presentato avrebbe preso, strappato un 60 immeritato. Sì. E quindi anche questa definiamola umiliazione per i professori che tante volte sono costretti a fare determinate cose, non è bella. Sì, poi tra l'altro è avanti un anno a scuola, insomma è un pasticcio da qualunque parte la guardi. La verità è che questo fa giocatore professionista, e magari un giorno prenderà la maturità e vediamo. questa non è, è una realtà che, ripeto, è virtuale per tutto il resto della, per tutti gli altri. Fabrizio, andiamo, sì, andiamo un attimo a bomba invece su, su questo mercato Milan che Inter, che io faccio fatica al momento a comprendere. Abbiamo la voce di Corvino su Borja Valero. Sì. Il procuratore di Borja, che come è successo nelle altre fasi di mercato, ha portato delle proposte, e lo ha fatto anche stavolta dicendomi che c'è una soluzione per l'Inter. Mi ha detto che c'era la volontà anche del ragazzo, la volontà del ragazzo. Sono stato chiamato dall'Inter ieri a conferma di questo, perché Ausilio mi aveva già chiamato 10 giorni fa per dirmi che c'era questa loro volontà e che era stata condivisa anche dal ragazzo e dal procuratore. Ho trasferito tutto, ho ascoltato e ho trasferito tutto all'arrivo del ragazzo di domani, perché vogliamo sentire dal ragazzo direttamente se c'è questa sua volontà. Vabbè, Fabrizio, Borja Valero, insomma, lasciamo stare i messaggi vocali eccetera eccetera, arriverà all'Inter. Questo sì, io credo proprio di sì, per come si sono messe le cose difficilmente potrà rimanere alla Fiorentina e di conseguenza sposerà la casa nerazzurra. Un giocatore secondo me molto interessante. Il problema è che ormai i giocatori, se non costano dai 30 milioni in su, sembrano tutti quanti dei poveri disgraziati. In realtà Borja Valero ha un curriculum che parla per lui, viene a dare una bella mano, soprattutto perché lo vuole Spalletti. Poi io capisco la preoccupazione del tifoso interista che dice: qui siamo ormai a luglio inoltrato e non si sì. vede nulla. Io ti posso dire che dall'interno della società invece c'è una serenità tibetana, sono molto tranquilli e sereni, sanno quello che stanno facendo e hanno le idee molto chiare, soprattutto ce le ha Spalletti, che prima di dire prendetemi questo e quell'altro vuole valutare una rosa che è vero che l'anno scorso ha fatto ridere, ma secondo me proprio perché ha fatto ridere ed è arrivata settima ha la possibilità di riscattarsi e ha valori superiori rispetto a quelli che ha fatto vedere. Poi con, secondo me, 3-4 innesti ben fatti, questa è una squadra che serenamente può fare un bel percorso in Serie A. Sì, si stanno cercando comunque dei giocatori molto giovani, sento di Dalbert, del Nizza, eccetera eccetera, si stanno, sì. L'Inter si sta muovendo in direzione veramente babyface. Sì, sì, io credo che sarà un mercato a due facce, cioè una faccia molto molto alla Sabatini, cioè questi giocatori che arrivano e non sono ancora completamente esplosi e in futuro possono portare anche delle plusvalenze, però siccome il papà si chiama Zhang e non ha bisogno necessariamente di tutte queste plusvalenze, allora probabilmente arriveranno anche quei giocatori già pronti in grado di dare un po' di sostanza alla squadra, sì. E allora Nainggolan secondo me resta un obiettivo dell'Inter. Ma anche il nome grosso, quello in grado di accendere la fantasia e l'entusiasmo dei tifosi. Ti ringrazio Fabrizio. Ti ringrazio, grazie a voi, grazie. Abbracci e baci a Fabrizio Biasin. Ci ha ascoltato anche il mio amicone Mario Boni. Ciao Marione. Ciao Carletto, buongiorno a tutti. Che buongiorno. Cosa ne pensi di questa Inter che va nascendo? Ma sono entusiasta. Sei da una parte entusiasta? Entusiasta, sono contento, sì. Da una parte, come dicevi, sottolineava Biasin, il fatto che ci sia Sabatini è una garanzia. E poi aspettiamo, sono convinto che faremo anche dei colpi molto importanti al di là degli sbarbi che abbiamo portato in squadra adesso. Sì. Adesso aspettiamo. Quindi sei fiducioso. Gli sbarbi giocano anche i mondiali over di basket a casa tua. Progetto per cui per portarlo a casa tua hai lavorato un sacco. Io questo, Dani, lo so perché me ne parlavi. 400 squadre, sì. A Montecatini. Sì, hai detto bene. Qui parliamo di diversamente giovani. Tutti di diversamente giovani, sì. Esatto. La nazionale italiana di diversamente giovani domani gioca i quarti di finale. Esatto, giochiamo contro la Croazia. Fammi dare due appunti su questo mondiale. Sono 18 categorie, dai over 35 ai 75 uomini, over 30 over 70 donne. Sono quasi 400 squadre, 6.000 persone qui a Montecatini. Come numero di squadre il più alto che c'è quest'anno in Italia, in Europa, perché direi anche nel mondo, perché non si è mai vista una concentrazione di squadre così alta. livello commerciale straordinario, rivedere tanti ex giocatori è bellissimo, una festa, come ho fatto poi sabato quando c'è stata la cerimonia d'apertura stile Olimpiadi, e poi via le partite con coinvolti 22 campi in Val di Nievole, si va dalla provincia di Lucca a tutta la provincia di Pistoia, quindi un evento molto molto importante che io insieme ai tanti altri compagni d'avventure, in primis con il Montecatini, abbiamo portato avanti ormai da 4 anni. Benissimo, domani quarti di finale con la Croazia, chi gioca nella Croazia? Io so chi sono i miei compagni, c'è Piero Montecchi, Flavio Carrera, c'è Bullara, c'è Alessandro Angeli, Riccardo Esposito, insomma tanti giocatori che hanno fatto la storia della pallacanestro italiana e ancora si divertono a mettere i calzoncini corti, quindi Forza Italia, c'è anche un'Italia diversamente giovane che vuole diventare campione del mondo. Forza Italia assolutamente, quei giocatori che hai citato, sì. Quest'anno io sono un... Claudio Capone. tra l'altro quest'anno sì. Ha vinto lo scudetto Venezia, sì. No, non succedeva da 74 anni, sono un nostalgico come tu ben sai, è salita la Virtus Bologna, certo. Da quel buco strettissimo, troppo stretto della serratura. Troppo stretto. Sì, ne parlavo, guarda, in onda con il presidente Gianni Petrucci, non più tardi di ieri, ieri in una lunga intervista. Mi auguro una Serie A in cui ci siano, di vedere presto una Serie A in cui ci siano tutte le piazze storiche. Marione, per chiudere, non posso non chiederti la tua sul bimbo che va col jet privato a Ibiza e salta la maturità. Dispiacere perché? Per cosa? Dispiacere, aveva l'esame di maturità, è una cosa che gli mancherà in seguito, avrebbe dovuto fare un ultimo passo, so che per lui a livello economico è assolutamente non significativo, ma lo sarà nel corso della vita, quindi mi dispiace, sono contento per lui per il successo personale che ha nel calcio, però ecco, una piccola soddisfazione in più, poteva dedicarsi a aspettare un paio di giorni prima di andare a Ibiza. Sì, ma ce l'hanno mandato per altre ragioni, tra l'altro mi sembra dovesse fare la maturità a Vigevano, città che entrambi conosciamo piuttosto bene. Esatto, ho visto, proprio a Vigevano. Io ho giocato 2 anni anche a Vigevano, tu sei di Pavia, quindi siamo lì vicini. Sì, derby, poi Vigevano, il derby, anche se Vigevano, insomma, sono molto legato a quella città. Ciao Mario, certo, abbraccioni, ciao Mario Boni. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire, adesso tra poco chiuderemo il nostro programma facendo un salto nel, insomma, là dove d'estate succede tutto. Non abbiamo, ce l'abbiamo in linea il nostro amico Marco da Milano, il nostro amico, ma ne stiamo aspettando un altro. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Proprio in tema di pallacanestro e questione di terminare gli studi, io ricordo quando negli anni 80 vedevo le telecronache di Dan Peterson di televisione e lui se la prendeva sempre. Ne vedevo anch'io. Il sabato pomeriggio. Lui se la prendeva sempre con coloro che lasciavano l'università dopo 1 o 2 anni e andavano subito a giocare in NBA, perché all'epoca era un'eccezione. Sì. Tant'è che lui diceva: questi arrivano senza maturità, io non mi fiderei mai di un giovane che arriva direttamente. Oggi invece in NBA, e qui mi riallaccio al discorso a Donnarumma, in un certo senso sì. È esattamente l'opposto, oggi pescano tutti quelli al primo anno. Allora e quelli qui, Marco, però qui bisogna fare dei distinguo, se no rischiamo di fare una gran confusione. Ad esempio LeBron James è arrivato dal liceo all'NBA saltando a pie pari l'università. Kobe Bryant ancora molti anni fa, adesso si è ritirato, ha fatto lo stesso. Michael Jordan ha lasciato l'università un anno prima, come hanno fatto diversi giocatori. Lì è una situazione diversa, che non è esattamente riportabile e replicabile alla situazione italiana. Dica, vada avanti. No, sono d'accordo con lei, però quello che intendo dire è che paradossalmente oggi un giocatore al quarto anno di università che si dichiara eleggibile per l'NBA vede il suo valore commerciale ridotto, perché ormai viene considerato vecchio nel loro sistema sportivo. Mm-hmm. Questo per dire che secondo me esiste una tendenza abbastanza generale, che io deprego ovviamente, che è quella di non dico bruciare, ma comunque sfruttare il talento quando è ancora acerbo. Mentre in realtà probabilmente farsi 2 o 3 anni di università, sto parlando delle esperienze NBA, ma mutatis mutandis parrebbe anche forse per quelli nostri. Però, però bisogna fare attenzione, anche perché lì ci sono dei giocatori che sono, appunto, ripeto il caso di LeBron James, dei predestinati, sa già che diventano delle superstar. Poi ce ne sono degli altri invece che saltano a pie pari università e diventano degli emeriti signori nessuno, e abbiamo anche lì vari esempi. Però attenzione, che il sistema americano è comunque differente. È molto raro che un crack o presunto tale, per usare il gergo americano, oggi finisca l'università nel periodo congruo e si presenti come eleggibile più tardi. Il saluto va al mio amico Bibi Velluzzi, della Gazzetta dello Sport, anche che ha le mani piene in questo periodo. Ciao Bibi. Buongiorno a voi, buongiorno Carlo. Sei a Ibiza con Donnarumma, posso dirlo? No, per fortuna no. No. Perché per fortuna no? Ma perché Ibiza e Formentera sono due piazze, insomma, diventate abbastanza difficili, perché sta pieno di calciatori. Sì, occupano tutti gli spazi loro, non c'è più spazio per gli altri, sono tutti lì. Sì, che poi significa la morte di tante altre località italiane, come la Costa Smeralda, che hanno perso moltissimo. Ci andiamo noi. Perché tu, cioè, pensare che Belotti abbia fatto il viaggio di nozze a Ibiza e Formentera, insomma, mi sembra quanto mai curioso, insomma, sarei andato da qualche altra parte il viaggio di nozze. Senti Bibi, cosa mi dici invece dello scoop dell'estate? Invece Donnarumma ha preferito Ibiza all'esame di maturità. Ma ognuno decide per sé e fa quello che può. Senti Bibi, cosa mi dici del caso dell'estate, la liaison dell'estate, Allegri Ambrangiolini, conosciuti, si dicono, narra la leggenda al Salone del Libro di Torino. Ma è il botto dell'estate, assolutamente. Poi, secondo alcuni conosciuti, invece, dopo uno spettacolo teatrale di lei, uno spettacolo sempre a Torino, e quindi ci sono un po' di fonti, insomma, mm-hmm. su questa vicenda. Comunque in un luogo colto, in un luogo alto. In un luogo colto, in un luogo alto, comunque, non esattamente in discoteca, insomma. Dimmi. Sicuramente lo scoop dell'estate, cioè, per dire, Borriello diventa va in secondo piano, cioè Borriello, che avrebbe trovato l'amore con Larissa, davanti alla perla di Allegri va veramente in secondo piano, cioè nell'estate del gossip. Quindi davvero incredibile, davvero inaspettato. Si sapeva da tempo che Allegri non aveva più grandi rapporti con la sua storica compagna Claudia, con la quale è stato praticamente due volte, e poi la seconda volta dando alla luce il piccolo Giorgio. La storia era ai minimi termini, era finita da tempo, e non si immaginava un colpo simile, che poi per un allenatore così mediatico, così importante, può avere vari effetti. Cioè, bisogna stare molto attenti, secondo me, in questi casi, perché quando finisci nel calderone del gossip e alleni una squadra, c'è anche un po' il rovescio della medaglia. E che allenatore e che esatto. Squadra? Sì. Per carità, ognuno fa i fatti suoi, e l'amore è cieco, sordo e muto, va assolutamente, figurati se ci mettiamo a dare giudizi di valore. Però grazie. Chiaramente a quei livelli bisogna stare un po' attenti, perché sei continuamente nel calderone a quel punto. Grazie Bibi, un abbraccione. Grazie a voi. Ciao, a presto. Grazie a voi. Ciao, a presto, Bibi Velluzzi. Salvatore da Catania, posso salutarlo? Salvatore, dica buongiorno. Buongiorno, sono Salvatore da Catania. Al volo. Allora, sarò veloce. Intanto, grazie per la convocazione e complimenti sempre. Grazie. Volevo soltanto esprimere un po' di considerazione in più per l'esempio Donnarumma, cioè guardare anche l'esempio positivo che potrebbe essere Donnarumma. Io mi ricordo che nell'88 feci il militare a Bari, sì. Arrivarono i buon Maldini e Mancini, firmarono, sì. Mm-hmm. In caserma, andarono via a fare gli europei in Germania. Sì. Noi in quel momento eravamo, so quanti, centinaia di mila, che comunque abbiamo anche pensato in un primo momento, sono dei privilegiati, ma considerando il fatto che fanno parte di un grande spettacolo, sono dei professionisti, sono stati fuori di casa certe possiamo volte essere, anche all'età ragione, ma possiamo essere invidiosi finché ne abbiamo voglia, Salvatore, ma questa è, fa parte della telenovela di cui sopra. Dobbiamo chiudere, lo facciamo ringraziando Giorgio Lucca, il nostro attore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 14 di nuovo, tutti convocati, ciao. Abbiamo visto abbastanza, ciao a tutti. Saluti!